2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it e come sempre vi ricordo che ci trovate anche su Facebook oppure su Twitter. La settimana scorsa ricorderete che abbiamo parlato di robot che puliscono la casa, aspirapolvere automatici, una puntata molto interessante anche perché abbiamo parlato di una esigenza di tutte le famiglie quotidiana e di un sistema che automatizza questa attività quotidiana. Il giorno dopo, proprio il giorno dopo, ha fatto discutere e ha fatto direi il giro del mondo un'intervista che Colin Engel, che è il numero uno di iRobot, che è l'azienda che produce anche i Roomba, che sono molto popolari, robot da pulizia molto popolari, Colin Engel ha rilasciato questa intervista alla Reuters e ha parlato di futuro, di scenario anche del mondo delle pulizie e di come queste macchine possono raccogliere dati. E a proposito di dati, Colin Engel ha ipotizzato di vendere i dati della casa, perché questi robot, lo abbiamo raccontato e spiegato nella puntata della scorsa settimana, creano una mappa della casa proprio per poter pulire in modo efficiente in casa. Quindi nella stragrande maggioranza dei casi questi robot non tengono in memoria la mappa, la ricreano ogni volta che fanno le pulizie, ma nulla vieta di creare, immagazzinare una mappa e magari arricchirla con particolari, visto che alcuni di questi prodotti hanno anche una videocamera. Allora, in questa intervista Colin Engel ha ipotizzato appunto di vendere i dati della casa raccolti da questi robot per costruire nuovi servizi per la smart home o migliorare servizi che oggi ci sono. Possiamo ipotizzare tantissime cose. Beh, ad esempio, uno potrebbe vendere questo tipo di dato e da questo tipo di dato si può sapere quanto è grande una casa e quindi sapere che uno vive in una casa grande o piccola può poi determinare politiche di marketing diverse e personalizzate. Poi iRobot ha precisato che per il momento è solo un'ipotesi e se si farà lo si farà comunque solo con il consenso dei consumatori. Ma questo, però c'è anche chi è andato a guardare nelle note a margine, chiamiamole così, quelle scritte sempre in piccolo, che noi accettiamo quando scarichiamo la app di questi servizi. Nel particolare un sito americano ha fatto una analisi di quello che gli utenti accettano quando scaricano la app di iRobot e in teoria iRobot potrebbe già condividere questo tipo di dati. Anche questo è uno scenario che ha degli aspetti interessanti, degli aspetti inquietanti ed è sempre un nuovo scenario da tenere in considerazione quando parliamo di dati che vengono raccolti, in questo caso nelle nostre case, e di come questi dati possono essere utilizzati. Alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Infratel ha ufficialmente aggiudicato a Open Fiber la seconda gara per realizzare infrastrutture a banda ultralarga nelle cosiddette zone a fallimento di mercato. Il valore della gara è di circa 1,25 miliardi di euro e la rete, in questo caso, in questo secondo lotto di questa rete, verrà costruita in 3.710 comuni in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli, Venezia Giulia, provincia autonoma di Trento, Marche, Umbria, Campania, Basilicata e Sicilia. Diciamo che tra il primo e secondo lotto si è fatta quasi tutta l'Italia e stiamo parlando delle zone a fallimento di mercato, di una rete di cui abbiamo parlato in passato a 2024. Poi c'è un terzo lotto, vedremo in autunno che cosa ne sarà. Uno dei pezzi di software che ha fatto la storia di Internet e soprattutto ha contribuito a rendere Internet, soprattutto il web, il World Wide Web, un luogo di immagini in movimento multimediali, terminerà nel 2020. Adobe ha infatti annunciato che ne interromperà il supporto, quindi fra pochi anni, a favore del già diffuso e ottimo HTML5. E devo dire che molti servizi, molti browser ormai si stanno posizionando. Apple e Steve Jobs avevano già da tempo detto che Flash doveva morire e morirà nel 2020. L'autorità antitrust italiana chiede trasparenza ai cosiddetti influencer su Twitter, Instagram, Facebook e su altri social network. perché quando una di queste celebrità, perché ce ne sono alcune che sono seguite veramente da milioni di persone, quando una di queste celebrità posta una foto o un messaggio che contiene pubblicità, magari una fotografia con un prodotto particolare, oppure un video, beh, ci siamo dimenticati di YouTube, ci sono le YouTube star, i famosi YouTuber. Se uno ad esempio su YouTube racconta che si sta truccando con il tal prodotto, beh, nel 99% dei casi quella è pubblicità. Allora, secondo l'antitrust, questa deve essere esplicitata tramite un apposito hashtag, ad esempio hashtag pubblicità, hashtag sponsorizzato, advertising, insomma inventatevi quello che volete, dice l'antitrust, ma che sia trasparente. Devo anche dire che l'istituto di autodisciplina pubblicitaria da tempo si sta occupando del tema ed esiste una cosa che si chiama Digital Chart, che è una sorta di vademecum per chi si occupa di questi temi, quindi anche per le celebrità, che dovrebbero diventare sempre più trasparenti. L'ultima notizia riguarda TIM, che ha annunciato una nuova tecnologia, diciamo un mix di tecnologie, che verrà lanciata a Milano e Torino a settembre. Si tratta di speciali hotspot che sfruttano da un lato l'evoluzione del 4G, il 4,5G, e antenne simili al Wi-Fi. Allora, aggregando queste due capacità si arriva, pensate, ad un gigabit in download e 130 megabit in upload. Questo serve più che per un terminale, a parte che adesso i terminali sono rarissimi che possono raggiungere, cioè terminali inteso per come smartphone o tablet che possono raggiungere queste velocità, ma servirà soprattutto a risolvere i problemi di connettività in posti molto affollati. Immaginate uno stadio o altri luoghi dove ci sono tantissime persone, beh, è esperienza di molti di noi o di tutti noi incontrare difficoltà perché ci sono tante persone nello stesso posto e le antenne però sono quelle, ovviamente sono dimensionate per la media delle persone che sono in quel posto, non quando ci sono tantissime persone. Ecco, in questi casi tecnologie di questo genere potrebbero sicuramente servire per risolvere o comunque per alleggerire questo problema. Adesso parliamo di biciclette 4.0, potremmo chiamare così questo nuovo tipo di bike sharing che arriverà anche in Italia. Gli esperti tecnici dicono bike sharing free floating, ma se noi traduciamo in italiano diciamo bicicletta condivisa a flusso libero. Sono biciclette dotate di GPS, connessione alla rete mobile e altre soluzioni tecnologiche che ne permettono il noleggio via app tramite smartphone. Ne abbiamo parlato recentemente nel 2024, abbiamo accennato a questa evoluzione perché soprattutto in Cina c'è un vero e proprio boom di queste biciclette. Ce ne sono milioni in tantissime città, in decine di città. Lanciare il servizio anche in Italia, non a caso, è un'azienda cinese, Mobike, che è una grande azienda che sta investendo tantissimi soldi. Il servizio verrà lanciato nei prossimi giorni nelle città di Firenze e Milano, comunque diciamo tra l'inizio e i primi 15-20 giorni di agosto. Di questo ho parlato con Alessandro Felici, che è fondatore e amministratore delegato di Evlonet, che è una società specializzata in e-commerce in Cina, e proprio per il fatto che Evlonet lavora in Cina, quindi Felici e i suoi dipendenti, tutte le persone del team lavorano in Cina, beh, hanno avuto contatti con Mobike e Evlonet rappresenta in Italia Mobike. Bike sharing a flusso libero è un concetto molto innovativo che permette all'utilizzatore di trovare la bicicletta in città, in prossimità del posto in cui si trova, e utilizzarla e lasciarla in qualsiasi parcheggio legale autorizzato in qualsiasi punto della città. Quindi svincola fondamentalmente l'utilizzatore dalla necessità di portare o trovare la bicicletta presso gli stalli. E questo è permesso già nel mondo, ci sono molte città che utilizzano questo tipo di tecnologia, soprattutto in Cina. È permesso dallo sviluppo della tecnologia GPS, connettività mobile, smartphone, poi lo spieghiamo. Diamo subito la notizia, cioè la notizia è che da pochi giorni è stato annunciato l'avvio del bike sharing in questa modalità in Italia, a Firenze e a Milano. Dove e come e soprattutto da quando? Sì, l'Italia è uno dei primi paesi ad accogliere la nuova tecnologia del flusso libero. In Cina sono già più di 100 città, sono circa 150 città con solo per Mobike 6 milioni di biciclette e più di 25 milioni di utilizzi quotidiani. L'Italia è nel primo cluster, nel primo gruppo dei paesi che accogliono tecnologia a livello internazionale. Sono già partiti a Singapore, stanno partendo in Giappone, sono partiti in Inghilterra, a Manchester, e l'Italia fa appunto parte del primo gruppo di paesi internazionali per lo sviluppo. Stiamo partendo nelle città di Firenze e di Milano, che hanno emesso delle manifestazioni di interesse, dei bandi aperti. Sì, ci deve essere un bando del comune. Sì, corretto. Noi operiamo esclusivamente con il supporto delle istituzioni locali, perché il flusso libero presuppone un'interazione molto forte con le autorità locali. Sì, anche perché invadete le strade di biciclette, poi ne parliamo, ma da quando partono questi servizi a Milano e a Firenze? Sono entrambi stati autorizzati per il mese di agosto, quindi le biciclette sono già in Italia, altre biciclette stanno arrivando. Abbiamo autorizzate 4.000 biciclette a Firenze e 4.000 biciclette a Milano, che partiranno nei prossimi giorni, e ne stiamo chiedendo delle altre, con un obiettivo chiaramente di espansione nazionale molto molto veloce. Quindi non solo queste città, cioè in previsione ci sono altre città? Assolutamente, sicuramente tutte le città prioritarie sono città con una numerosità di abitanti rilevanti. L'obiettivo strategico è anche espandersi nei comuni più piccoli. Stiamo valutando anche partnership con grosse aziende che hanno un respiro nazionale per permettere una penetrazione anche nei centri urbani più piccoli. Queste biciclette come sono fatte e perché io ho detto che questo tipo di bike sharing, questa bicicletta in condivisione, questa modalità, diciamo, è permessa dalla tecnologia? Sì, c'è tanta tecnologia, quindi le biciclette sono equipaggiate con un sistema GPS che permette la localizzazione, collegata ad una carta SIM che permette di dialogare sia con il consumatore attraverso un'app che con la centrale servizi di Mobike. Quindi questo è un esempio di internet degli oggetti, queste biciclette sono oggetti connessi alla rete? Esattamente, siamo proprio nel territorio dell'internet degli oggetti. Tutte le biciclette sono in rete, sono visibili attraverso un'app che si scarica gratuitamente sul telefonino. Dall'app vedo dove si trova la bicicletta, posso prenotarla, posso chiaramente raggiungerla, scannerizzo un QR code presente sulla bicicletta e a quel punto si apre il lucchetto automaticamente e comincio a utilizzare la bicicletta. Alla fine dell'utilizzo basta chiudere manualmente questo lucchetto, che è molto semplice, e si termina la corsa, si paga la tariffa e si lascia la bicicletta. E la si lascia dove uno vuole? L'importante è che siano parcheggi legali, il punto che diceva molto correttamente. Il rischio del free floating, come tutti i grossi cambiamenti, è quello poi di, soprattutto nella fase iniziale, di essere interpretato in maniera non corretta con biciclette che vengono parcheggiate in maniera un po' selvaggia nella città, e questo può offuscare quelli che sono i grossi benefici del flusso libero. In Cina in questo momento c'è una riduzione dell'uso delle automobili pari al 5%, e siamo all'inizio. Nonostante questi numeri importanti, tanti milioni di biciclette, in realtà siamo ancora all'inizio del flusso libero. Per gli utilizzatori del flusso libero la riduzione nell'utilizzo del mezzo privato è del 55%, che poi riproporzionato sul totale popolazione diventa il 5%. Già adesso parliamo di una riduzione del CO2 in Cina pari a 170.000 automobili. E è oltretutto il mezzo di trasporto più semplice. Si parla di intermodalità, quindi l'utilizzo della bicicletta per raggiungere un mezzo pubblico, si scende dal mezzo pubblico e si prende un'altra bicicletta per andare tendenzialmente nel posto di lavoro. Sì, per fare l'ultimo miglio magari, l'ultimo miglio. Esattamente. Senti, queste biciclette si possono utilizzare tramite smartphone, o meglio, si possono prenotare tramite smartphone, sbloccare tramite smartphone. Non è gratis questo servizio? No, non è gratis, non costa alla comunità, quindi non è un servizio sussidiato dallo Stato o dalle autorità locali, a differenza degli attuali servizi in funzionamento, è un servizio privato. Quindi è previsto un deposito per l'utilizzatore che viene restituito qualora decida di cancellare il contratto, e poi ci sono delle tariffe. In questo momento la tariffa di base è strutturata sull'utilizzo medio di 30 minuti. Abbiamo una tariffa di 50 centesimi che nella fase iniziale verrà ridotta a 30 centesimi per invogliare l'utilizzo del servizio. In futuro, oltre alla tariffa a tempo, avremo anche degli abbonamenti per privilegiare gli utilizzatori più fedeli. Certo, quindi diciamo uno non acquista la bicicletta, può utilizzare questo servizio pagando una piccola cifra che in alcuni casi può essere anche sostitutiva del mezzo pubblico, ad esempio. Sì, corretto. Quella è un po' la filosofia e la strategia di fondo. Tu hai parlato di 4.000 biciclette a Firenze e 4.000 biciclette a Milano. Possono sembrare molte, invece guardando i numeri di altre città sono poche, giusto? Sì, in base ai nostri dati sulla la numerosità della popolazione, anche le caratteristiche orografiche sia di Firenze che di Milano, vediamo una capacità di assorbimento nettamente maggiore. Il bando pubblico di Milano prevede 12.000 biciclette, noi non facciamo fatica a pensare a numerosità di 15 o 20.000, soprattutto se riusciremo, come molto auspicabile, a coinvolgere anche la città metropolitana e i comuni limitrofi, che hanno anche loro tanto bisogno, perché molti utilizzatori arrivano in città venendo dai comuni di prossimità. Un concetto importante per far affermare questo tipo di servizi è che le biciclette devono essere molte, così come anche le automobili condivise, tutto quello che è condiviso all'interno di una città devono essere molte e disponibili, perché questo incentiva poi l'uso, giusto? Sì, il sistema si considera a regime quando l'app non viene più utilizzata per cercare la bicicletta, perché io la bicicletta la trovo semplicemente guardando intorno a me. Cioè io esco dall'ufficio e trovo la bicicletta. Corretto. Esco da casa, esco dall'ufficio, mi guardo intorno e ne trovo una decina, non una. Senti, questa bicicletta ha anche altre cose tecnologiche, oltre al GPS, alla connettività con la telefonia mobile, che cos'altro? Tanti sistemi che sono, tra l'altro, tante soluzioni che sono studiate per rendere la bicicletta molto funzionale e molto affidabile, quindi è una bicicletta di alta qualità progettata per resistere fino a 4 anni, molto solida, con una trasmissione in cardano che sostituisce la catena, le ruote sono piene, non c'è una camera d'aria, quindi non soggetto a foratura, i freni sono a disco, quindi molto più efficaci e molto più duraturi anche loro. La sella è regolabile, molto comoda. Tra l'altro ci farà piacere sapere che la sella è di produzione italiana, una grossa azienda italiana, quindi c'è anche della tecnologia italiana, quindi made in China ma con la sella italiana, con un po' di tecnologia italiana. E l'Italia è un paese molto avanzato tecnologicamente sul settore biciclette, quindi ci sono anche altre partnership in via di sviluppo in cui c'è un coinvolgimento di aziende italiane per lo sviluppo tecnologico di mobile, dove lo sviluppo tecnologico rappresenta una grossa priorità strategica per l'azienda. È vero che l'Italia sarà, se le previsioni verranno rispettate, a fine anno il paese con il più alto numero di biciclette in condivisione con questa modalità, oltre alla Cina ovviamente? Sì, infatti bisogna fare anche i complimenti alle nostre amministrazioni pubbliche, che questa volta sono state molto veloci. L'Italia concentrerà, vedendo l'industria, senza parlare di mobike, verosimilmente a fine anno il maggior numero in assoluto di biciclette a flusso libero, battendo paesi che per noi sono spesso punto di riferimento, come addirittura Stati Uniti, Germania, Francia e Inghilterra. Stavolta siamo stati bravi e veloci. Cioè, ci può essere il timore che queste biciclette vengano rubate, anche se uno dice c'è il GPS, quindi il ladro lo andiamo a pescare subito? Purtroppo un po' ne rubano, per fortuna sono fenomeni che riusciamo a controllare, perché la bicicletta, oltre ad avere il GPS, è anche allarmata e il furto è molto disincentivante, quindi se viene rubata poi non frena più, perché i freni vengono attivati soltanto attraverso l'apertura corretta attraverso app e QR code, e tutti i pezzi della bicicletta sono proprietari, quindi non sono misure standard. Se rubo la bicicletta per farne i pezzi di ricambio, poi questi pezzi di ricambio non possono essere adattati su altri mezzi. C'è un aspetto poi anche di buon senso, che in genere le biciclette che vengono rubate per essere rivendute tendenzialmente sono biciclette un po' generiche, invece il design molto spinto di Mobike fa sì che poi diventa più difficile camuffarle rispetto a una bicicletta in commercio. Certo, anche perché questo è un servizio che esiste già da tempo in Cina, e in Cina il fenomeno dei furti di cose in condivisione è abbastanza diffuso, non è che in Cina non rubano. Sì, e infatti la numerosità di furti è abbastanza sotto controllo. In Italia monitoreremo con moltissima attenzione il vandalismo, perché quello verosimilmente potrebbe essere un rischio paradossalmente anche maggiore rispetto ai furti, soprattutto nella fase iniziale di introduzione del servizio. In molti servizi in condivisione esiste il concetto del feedback, del punteggio. Anche voi in qualche modo, e come lo utilizzate? Sì, per noi è fondamentale creare la cultura del bike sharing e quindi l'utilizzo socialmente corretto di questi mezzi. Abbiamo un sistema premiante per cui l'utilizzatore che trova una bicicletta che non funziona, che magari ha un problema meccanico, e segnala il problema, riceve dei punti, dei crediti che può usare successivamente come sconto sull'utilizzo della bicicletta. Lo stesso se trova per esempio una bicicletta parcheggiata in una maniera non corretta. L'utilizzatore precedente che ha fatto questo parcheggio invece si trova decurtati 10 volte i punti che avrebbe preso se avesse parcheggiato in maniera corretta. Questo ci permette di premiare i comportamenti virtuosi e disincentivare in maniera molto severa gli utilizzatori poco corretti. Se la disincentivazione poi funziona, il consumatore può tornare virtuoso e recuperare i propri punti, altrimenti a un certo punto si può arrivare anche alla disdetta del contratto. Questa fa parte di una strategia più ampia, che è proprio quella di creare questa cultura, quindi creare una community di persone che attivamente si spendono per l'utilizzo corretto del bike sharing, e sta funzionando molto bene. Dal prossimo maggio, quindi da maggio 2018, un paio di nuove direttive europee obbligheranno tutte le aziende, con poche eccezioni, a comunicare al garante della privacy e ad altre entità, che in alcuni casi devono essere ancora definite, ci sono ancora alcuni dettagli da definire, come accade spesso, o che di fatto obbligheranno alle aziende di rendere pubblico un eventuale attacco informatico che abbia compromesso i propri sistemi e soprattutto metta a rischio la privacy dei clienti. Diciamo che quello che accade già da tempo negli Stati Uniti e che commentiamo anche a 2024, che comunque leggiamo spesso negli Stati Uniti, accadrà anche in Europa. Da questo punto di vista diventeremo un po' più normali e quindi sapremo se un'azienda verrà attaccata. Ovviamente ci auguriamo che accada sempre meno, ma nella dimensione digitale della nostra vita, delle nostre aziende, del nostro lavoro, questa è una realtà con cui fare i conti, quindi è abbastanza normale. Anzi, diciamo che di attacchi alle aziende, soprattutto alle aziende, ce ne sono ogni ora, ogni giorno milioni. Poi che questi attacchi vadano a buon fine è tutta un'altra questione, però ogni tanto qualche attacco, ovviamente, visto che sono così tanti gli attacchi, tentativi di attacco, poi ogni tanto qualcosa succede. Tutto ciò è dettato soprattutto da motivi di trasparenza verso i consumatori, quindi ben vengano queste direttive europee. Questa settimana parliamo di un annuncio fatto da Unicredit pochi giorni fa, che potremmo dire rientra in questi casi. Ovviamente le banche hanno normative che si aggiungono a quelle che entreranno in vigore dal maggio del 2018, però Unicredit ha annunciato questa settimana che i sistemi di un proprio partner sono stati bucati e i dati di 400.000 clienti relativi a prestiti personali sono stati copiati. C'è chi sostiene che sia il più grande attacco informatico fra quelli conosciuti in Italia, ma visto che non c'è ancora obbligo di comunicare questo tipo di attacchi, non sappiamo poi se sia veramente il più grande. Magari ce ne sono stati altri molto più grandi, molto più vasti, che non sono stati ancora comunicati. E come sempre più spesso accade, si cerca di bucare un partner e non direttamente l'azienda. Questo è un dato interessante dal punto di vista informatico. Ma che cosa è successo? Ne abbiamo parlato questa settimana, ne ho parlato con Daniele Tonella, che è l'amministratore delegato della divisione di UniCredit che si occupa di informatica, UniCredit Business Integrated Solutions. Parliamo proprio di questo attacco denunciato in settimana da UniCredit. La notte tra il lunedì e il martedì 24-25 di luglio, nell'ambito di alcuni controlli di routine, ci siamo accorti di anomalie su dei tracciati. Allora, le anomalie sono normali nella produzione, semplicemente richiedono delle analisi supplementari. Nel contesto di queste analisi supplementari, i team si sono accorti di un'uscita non legittima di dati al di fuori del perimetro della banca. Quindi diciamo, una procedura standard, è stato aperto un incidente di sicurezza, è stato classificato su una determinata scala e poi sono state lanciate innanzitutto le misure per chiudere immediatamente la falla e per mettere in sicurezza il perimetro diciamo attaccato, e poi sono state lanciate tutte le iniziative di attorno, quindi analizzare il problema e analizzare l'impatto dell'attacco. In questo caso l'analisi ha rilevato che questa esfiltrazione di dati era già cominciata nel settembre dell'anno scorso. Analisi che ha anche quantificato l'impatto nel numero che abbiamo pubblicato, quindi nei 400.000 dati di clienti che sono usciti dalla banca. Che tipo di dati? Principalmente anagrafici, più i numeri di conto IBAN delle persone coinvolte. Sono dati che escono da un sistema, quindi non dell'anagrafe principale della banca, ma da un sistema periferico, e quindi sono dati che sono diciamo inutili da un punto di vista di transazione bancaria o di accesso ai conti correnti dei nostri clienti. Quindi non hanno visto il mio conto corrente o quanti soldi uno ha sul conto corrente? Assolutamente no, hanno solo visto il numero IBAN delle 400.000 persone i cui dati sono usciti dalla banca. Voi avete annunciato che questi 400.000 clienti verranno avvisati non via mail e nemmeno via telefono. Per quale motivo? Allora, abbiamo preso una decisione molto esplicita di domandare ai clienti di essere loro a contattare noi, perché volevamo evitare il rischio che sull'onda della comunicazione e della copertura mediatica che ci siamo attesi ci fossero degli attori malevoli che inondassero il mercato con dei messaggi di mail a nostro nome, costruiti come se venissero da noi, e che chiedessero nella loro mail: hai letto che stamattina questo messaggio ti informa che i tuoi dati sono stati portati via, clicca qui e ti diciamo di più. E poi c'è il famoso click che porta malware, phishing, ransomware e tutto il resto del pacchetto. Stessa cosa per il telefono. UniCredit è una banca che ha 7 milioni e mezzo di clienti in Italia. Vuol dire che se io prendo il telefono e faccio 10 telefonate, 2 o 3 clienti di UniCredit li becco. E se trovo un cliente UniCredit al telefono, posso giocare lo stesso gioco. A letto, vengo dalla parte della banca, guardi, le devo chiedere di fare questo, questo e quell'altro, e a quel momento tutte le tecniche, si chiamano di social engineering, permettono di ricavare delle informazioni supplementari. Quindi abbiamo escluso a priori con il comunicato che un messaggio che potesse far finta di sembrare di venire da noi circolasse sull'onda dell'annuncio. E questa era la voce di Daniele Tonella, amministratore delegato di UniCredit Business Integrated Solutions, che è la divisione IT di UniCredit. Quindi fortunatamente potremmo dire non sono stati rubati dati particolarmente pericolosi, ma informazioni che con ogni probabilità serviranno per attacchi di phishing. Phishing, tra l'altro, anche telefonico, questo è un dato interessante, e qui la palla passa a noi, che usiamo la posta elettronica, che dobbiamo essere sempre più bravi a capire se un messaggio è di phishing. Certo, dobbiamo anche avere sistemi anti-phishing, però poi quando ci arriva una mail che sembra vera ma in realtà non è vera, dobbiamo essere noi che capiamo che su quella mail non dobbiamo cliccare. Ovviamente se ci arriva una mail di una grande azienda, di una banca, che ci chiede dati personali, beh, nel 99,9% dei casi non è una mail genuina, quindi siate sospettosi. Una cosa che dicevo poco fa, che mi sembra interessante, è che, come sempre più spesso accade, si cerca di bucare un partner e non direttamente l'azienda. Perché? Beh, perché bucare direttamente una grande azienda non è facile, le aziende spendono un sacco di soldi. Le contromisure di queste grandi aziende, soprattutto delle grandi banche, sono molto elevate. Pensate che UniCredit ha annunciato e sta investendo in security fra il 2016 e il 2019 in questo piano industriale 2,3 miliardi solo in sicurezza informatica. Quindi è ovvio che se io sono un hacker non devo investire un sacco di soldi, un sacco di risorse per bucare una banca. Beh, magari cerco un partner che collabora con la banca e forse è un po' meno, un po' più vulnerabile, un po' meno protetto. Su questo è stata aperta un'inchiesta, quindi c'è anche questo lato. E comunque è sicuramente un esempio di quello che succederà sempre più spesso nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Annunci, poi se va così, cioè che non vengono rubati dati particolarmente, certo, meglio che non accadano, però non è nemmeno la cosa peggiore che possa succedere. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Riprendiamo tra poco. Riprendiamo questa puntata di 2024 che tra l'altro è la nostra ultima puntata della stagione, riprenderemo a settembre e nel mese di agosto e anche nel primo weekend di settembre, diciamo così, avremo una versione estiva di 2024, una versione agostana di 2024 più breve, una mezz'ora, sabato alle 12.30, domenica alle 13.30. con alcune delle nostre migliori interviste, ma anche degli approfondimenti di attualità, se l'attualità dovesse fornirci motivo di approfondimento. Comunque, insomma, non andiamo in vacanza, rimaniamo a presidiare il territorio tecnologico anche ad agosto, poi riprenderemo la stagione a settembre con gli altri programmi di Radio 24. Dunque, saluto Pepe Moder, esperto di servizi digitali e docente ai master del Sole 24 Ore, per parlare questa settimana di come il mondo digitale richiede di innovare anche il nostro approccio con il mondo del lavoro, nella ricerca di talenti. Pepe, bentornato a 2024. Grazie Enrico. Pepe Moder è uno dei docenti dei master digital del Sole 24 Ore, della Business School del Sole 24 Ore, e noi ti sfruttiamo per raccontarci anche quello di cui parlate all'interno dei corsi. A proposito di corsi, io ho detto corsi digital, sono quelli che aiutano la trasformazione di questo mondo molto complicato. È un mondo che si sta trasformando, è un mondo che richiede delle professionalità estremamente specifiche ed estremamente approfondite. È necessario per tutti noi professionisti continuare a studiare incessantemente. La Business School del Sole 24 Ore ha un portafoglio di corsi estremamente interessanti, di master, estremamente di specializzazione estremamente interessante, sia per chi ha appena finito l'università che per chi lavora. Perché sono così importanti? Perché oggi cercare lavoro significa avere le capacità e le conoscenze che non solo il recruiter, cioè il valutatore che è dall'altra parte in azienda o in una società che lavora per l'azienda può valutare, ma sempre più la tecnologia valuta per noi. Oggi parleremo di piattaforme, oggi parleremo di comportamenti, oggi parleremo dell'importanza del processo, di come sta cambiando il processo di ricerca del lavoro. Sempre di più, una volta quando noi eravamo giovani si usava il Corriere della Sera o si usava il Sole 24 Ore per cercare lavoro durante la giornata dedicata agli annunci di lavoro. Oggi ormai le piattaforme che online mettono a disposizione non solo gli annunci, ma in realtà portano sempre di più a far incontrare la domanda e l'offerta sulla base delle caratteristiche, dei profili e delle richieste delle aziende. Quando parli di cambiamento e lo metti in relazione con la trasformazione tecnologica di questo mondo, non solo delle aziende, parli di competenze che noi dovremmo avere sempre di più, quindi conoscenze di come funziona la tecnologia, o di una cosa un po' più sfumata, un po' più ampia? Sicuramente sapere come funziona la tecnologia ti permette di capire quali sono i comportamenti dietro che abilitano l'utilizzo della tecnologia, perché poi la tecnologia alla fine, come dire, permette alle persone di fare certe cose, quindi aiuta, contribuisce a cambiare il modo in cui noi facciamo le cose. Sicuramente è molto importante capire alla base quali sono le regole di funzionamento. John Maeda, che è uno dei più grandi a livello mondiale, i più grandi esperti di design thinking e quindi di modalità innovative per pensare a come risolvere problemi attraverso metodologie di lavoro nuove, dice che i creativi devono imparare a fare codice, a scrivere cosa, a fare software. Perché? Perché hanno bisogno di pensare in scala mondiale. I mercati sono diventati così grandi che non possiamo più pensare di concepire creativamente un prodotto solo per poche persone, per una nicchia. Dobbiamo pensarlo in scala e solo la capacità di generare codice, quindi di ragionare anche attraverso il codice, senza dover diventare un esperto di programmazione software, ecco, ci aiuta a pensare in maniera differente, su scale differenti. Marco Mazzini è uno dei fondatori di Smartiv. Benvenuto. Grazie. Senti Marco, innanzitutto Smartiv che cosa fa? Smartiv si occupa di quella parte della trasformazione digitale che spesso paradossalmente è dimenticata, cioè le persone. E quindi aiuta le aziende, le grandi aziende, a trasformare le persone per trasformare se stesse. E noi diciamo spesso che trasformare, cambiare le persone è la cosa più innovativa che un'azienda può fare. Anche più complicata forse. Esattamente. Perché solo grandi aziende? Perché nel nostro piano di sviluppo in questo momento siamo partiti dalle grandi aziende. In realtà questo non significa che tutte le aziende, comprese le piccole e medie imprese in Italia, che sono la maggior parte, non ne abbiano bisogno. Diciamo che noi come modello di sviluppo nostro siamo rifatti da lì. Sì. Senti, tutto ciò lo fate tramite vostre competenze o software? In realtà noi lo facciamo con diversi strumenti che sono i nostri format. Che sono sia fisici, eventi nei quali di coinvolgimento, risorse e di formazione, di differenti modalità di attivazione delle risorse interne, sia attraverso tecnologie. Una di queste, per esempio, è la Smartiv Map, che è uno strumento diagnostico, come si dice specificamente, con il quale mappiamo lo stato delle competenze, quindi il livello di preparazione, di predisposizione delle persone e dell'azienda, quindi, alla trasformazione digitale. Questo strumento restituisce una fotografia al momento dato di quanto le persone sanno e sono aperte al cambiamento rispetto al digitale. È costruito su due dimensioni, l'apertura al cambiamento e le competenze digitali. È rifatto una sorta di quiz, di test, che chiunque anche sul nostro sito smartivmap.it può fare, e come risultato genera uno dei cinque profili disponibili che di fatto sono quello che noi chiamiamo gli embracer, cioè coloro che sono gli agenti del cambiamento, che hanno uno score molto elevato sia sulle competenze che sull'apertura al cambiamento, coloro che invece hanno meno competenze però hanno voglia di cambiare, che sono gli alleati, dall'altra parte gli scettici, che sono quelli invece che avrebbero molte competenze ma sono un po' più chiusi, un po' più restii al cambiamento, e quelli che chiamiamo resistenti, che sono coloro che in qualche maniera sono un po' bassini su tutte e due le dimensioni. Senti, perché un'azienda dovrebbe cambiare pensando a tutto quello che sta cambiando nel mondo, se lavora in un settore dove ci sono pochi cambiamenti, oppure se produce cose abbastanza esclusive? Cioè, se io faccio salami e sono bravissimo e i miei salami sono eccezionali, se io faccio, che ne so, la Nutella, perché dovrei cambiare? Ma il discorso si potrebbe affrontare in maniera tranchant. Nessuna azienda oggi è immune dal cambiamento e dalla trasformazione digitale. Al riguardo citerei un bellissimo studio che ha fatto un'università svizzera, che parla di vortice. Allora, è come se ci fosse un vortice, forse l'avrete già citato voi in trasmissione, il quale chi sta nella parte più esterna è un pochino più, non immune, ma più distante dal centro e quindi ha più tempo. E quelli invece come per esempio i media o il turismo... Sì, sì, noi siamo proprio dentro il vortice. Sì. Sono al centro e quindi hanno una quantità di cambiamenti contemporanei che rischiano di completamente sovvertire il business dell'organizzazione. Allora... Nessuno è immune al cambiamento perché poi l'impatto del digitale avviene su tutte le funzioni, quindi nel tuo esempio di salumificio potrebbe esserci un marketing più tradizionale e quindi meno digitale, ma una parte per esempio legata al finance, all'automazione comunque delle operazioni finanziarie, dell'integrazione con le vendite, o ad esempio tutta la parte di automazione dell'impatto dello smart manufacturing, cioè della digitalizzazione dei processi di produzione, che anche io non conosco questo settore specifico, però potrebbe impattare sul modo in cui si impacchettano o si fanno i salami. No, ma infatti io sono convinto che tutti debbano cambiare, io sono d'accordissimo con l'idea del vortice, assolutamente. Senti, quanto vale... il ruolo della tecnologia nel vostro lavoro? Ma noi nel nostro lavoro utilizziamo la tecnologia, ma per esempio in questo momento abbiamo scelto di utilizzarla poco nella fase iniziale. Noi parliamo di transformation journey, cioè di viaggio di trasformazione che parte da un punto e porta l'organizzazione dall'altra parte del guado. Allora, per farlo all'inizio la tecnologia è l'oggetto della discussione, ma come diceva anche Pepe prima, si tratta di aiutare a pensare diversamente e quindi noi per esempio privilegiamo strumenti offline, eventi di attivazione, vogliamo guardare negli occhi le persone e coinvolgere in tutte quelle parti emozionali di coinvolgimento che sono essenziali per iniziare il viaggio. Quindi la motivazione all'inizio la si fa molto nella dimensione offline. Certo, Pepe? Marco, volevo farti una domanda. Ormai la Smartive Map, il vostro strumento, la vostra piattaforma software di valutazione è un po' che è disponibile. Immagino avrete raccolto un numero, come dire, interessante di risposte. Ci dici, da un punto di vista proprio non tanto numerico, ma proprio di sensazione, come siamo messi in Italia? Purtroppo il quadro conferma quello che sapevamo, no? Forse ci sta per dire, non è che ci serviva la Smartive Map. No, infatti è interessante la Smartive Map perché noi poi pubblicheremo a fine anno un report perché chiaramente mette insieme la contribuzione anonima di tutti coloro che si sono misurati e ricostruisce un quadro non soltanto della singola azienda ma di tutti i rispondenti. E noi tra l'altro è possibile all'inizio possiamo profilarli per funzione aziendale e per livello per ruolo all'interno dell'organizzazione, quindi se sei un manager, un top manager, se sei una figura più operativa. Quello che emerge è che sia a livello delle singole organizzazioni sulle quali applichiamo la Smartive Map, sia in maniera coerente su tutto l'insieme dei rispondenti, gli embracer, cioè il profilo più avanzato, sono la minoranza, che corrisponde mediamente tra il 15 e il 20%. Solitamente questa è la costante. Mentre i resistant, cioè coloro che non cambiano e non vogliono cambiare, semplifico, sono circa il 40%. Marco, quanti di quelli che non vogliono cambiare dichiarano invece a parole che sono i più aperti in azienda? Questo è il problema, ma i falsi positivi sono il problema più difficile. Noi cerchiamo di riconoscerli subito perché sono un possibile ostacolo nella fase iniziale, specialmente se sono dei capi. Cioè se sono, per esempio ci è capitato clienti spesso in area tecnica, cioè che hanno un background ingegneristico, in cui c'è una autopercezione di grande orientamento alla tecnologia, che io chiamerei alla tecnica e non alla tecnologia. E quelli sono proprio quelli a cui ti facevi riferimento, cioè sono persone che in realtà se gli chiedi, fai la domandina, perché il nostro strumento ha un approccio, ci sono tanti disponibili online, il nostro approccio è quello di partire dall'uso specifico, cioè ti faccio la domandina su una funzionalità specifica di Dropbox, oppure che è la condivisione dei file, e vedo e misuro se sai o non sai, conosci quella funzionalità. Se la conosci, evidentemente sei un utilizzatore della nuova generazione di tecnologie, altrimenti no. Allora è chiaro che se tu mandi un file di grandi dimensioni via email da 30 mega, non sei ancora molto smart. C'è qualche problema. A proposito di cambiamenti, volevo presentarvi Isabella Kuster, che è una delle fondatrici di Just Knock. Benvenuta. Grazie. Allora, Just Knock possiamo tradurlo come basta che tu bussi. Esatto. Alla porta, no? Voi esistete da un paio di anni online, giusto? Esatto. E avete cambiato, state tentando di cambiare, una delle cose più tradizionali nel rapporto tra nuove persone che cercano di bussare alla porta, appunto, per entrare in azienda. Cioè avete detto, il curriculum è una cosa vecchia. Esatto, esatto. E quindi? Per noi il curriculum è superato, diciamo che Just Knock è nata proprio rispondendo a due chiare esigenze sul mercato. La prima, che abbiamo vissuto noi sulla nostra pelle nel momento in cui ci siamo trovati a cercare il nostro primo lavoro e ci trovavamo a inviare appunto il curriculum a tante aziende senza ricevere risposta, per cui ci siamo chiesti se effettivamente fosse il mezzo più appropriato per andare appunto a bussare alla porta delle aziende. E trovandoci a fare vari progetti in università, ci siamo chiesti, ma perché non mettere il focus sulle idee, sulle nostre idee, che poi alla fine sono quelle che meglio raccontano quello che siamo. Dall'altro lato ci siamo resi conto che anche le aziende ricevono migliaia e migliaia di curriculum che poi sono costrette a screenare sulla base di un 110 lode o comunque un voto di laurea. Selezionare, sì, sì. E poi in molti casi sono anche molto simili. Esatto, esatto. Sono uno l'omologo dell'altro, per cui è veramente difficile capire chi è il più talentuoso e soprattutto chi è il più motivato. Per cui noi crediamo che la motivazione sia la principale leva che poi porta le persone in azienda e le aiuta poi a sviluppare il loro percorso professionale. E voi avete pensato invece di fare che cosa? Noi diamo la possibilità alle aziende di postare delle sfide online, pubblicarle sulla nostra piattaforma e poi noi le sponsorizziamo sui social network, dove diamo una missione ai candidati chiedendogli di proporre, di rispondere con delle soluzioni. Per cui faccio un esempio di un'azienda nostra cliente, che è una grande realtà multinazionale operante nel settore del largo consumo, che cercava dei responsabili reparto sport. Per cui ha chiesto ai nostri utenti di proporre delle soluzioni per ridurre il tempo d'acquisto all'interno del negozio. I candidati hanno risposto, una ventina, trentina di candidati con delle soluzioni, i migliori 10 sono stati invitati in azienda e 4 di questi hanno ricevuto un contratto di lavoro. E tutto ciò viene mescolato con i dati dei curricula oppure no? Cioè il curriculum rimane comunque come valore o se mi arriva il progetto di uno che magari non è nemmeno laureato, lo prendete, oppure che ha avuto un voto di laurea non altissimo? Questa è un'ottima domanda, grazie. Mi sono dimenticata di dire che in un primo momento le aziende non vedono l'identità di chi propone la sua candidatura, questo per mantenere il focus sul merito. In una seconda fase però il curriculum diventa visibile, quindi quando l'azienda ha valutato tutti i progetti ricevuti in risposta a appunto la mission data, il sistema genera in automatico una classifica che li ordina per votazione ricevuta e poi sono visibili anche le identità dei candidati, per cui si può fare il confronto tra appunto i migliori progetti e l'esperienza dei candidati. Noi ovviamente andiamo in un primo momento a sponsorizzare quella tipologia di opportunità professionale su un target definito con l'azienda e poi però non sbarriamo le porte a nessuno. Certo, comunque è una piattaforma online. Esatto. E come guadagnate? Noi guadagniamo dalle aziende, clienti che possono pubblicare una loro pagina profilo sulla nostra piattaforma che è sempre aperta e dà la possibilità ai candidati di proporre delle idee spontanee, oppure ogni qualvolta l'azienda decide di pubblicare appunto una di queste sfide avendo un'esigenza specifica di ricerca di un candidato. Sì. Pepe? Quindi Isabella, da una parte la piattaforma aiuta a diminuire drammaticamente il numero di persone che mandano curriculum così, no? Appena trovano un come dire, appena trovano un profilo, track, mandano il... E dall'altra però, molto con una visione molto americana, in realtà è molto meritocratica, in realtà un'azienda potrebbe scoprire di avere prediletto una persona che il cui profilo, il cui curriculum, nulla a che vedere con i tradizionali profili che andavano a cercare sul mercato. Sì. Esatto, per cui diciamo che è molto interessante vedere come alcune persone che erano state scartate tramite invio di curriculum in risposta a un annuncio pubblicato sui siti delle aziende, poi hanno inviato un progetto tramite JustKnock e sono state assunte. Per cui devo dire, abbiamo già riportato più di un caso di assunzioni di persone che erano state scartate attraverso la modalità del curriculum. Sì. E l'altra cosa su cui assolutamente vale la pena soffermarsi e sottolineare è che effettivamente la motivazione, lo screening, la selezione iniziale basata sulla motivazione del candidato è fondamentale, perché effettivamente si evita di ricevere candidature da persone che sono totalmente fuori e non in linea con quanto è poi chiesto nel contenuto del progetto. Sì. Marco? Sì, io vorrei rafforzare quello che sta dicendo Isabella, perché è un approccio a mio avviso molto giusto, che intercetta un trend nel recruitment che è il futuro del modo in cui le aziende intercettano i talenti. In generale il contesto prevede, sembra paradossale dirlo, ma la sperequazione tra un elevato livello di disoccupazione, specialmente in Sud Europa, di profili giovanili, e però un terzo delle vacanze, cioè delle posizioni aperte nelle aziende in Europa, rimane tuttora scoperto per una differenza tra domanda e offerta. In più c'è una guerra serratissima nei mercati più evoluti sui talenti, cioè su trovare quelli più bravi. Allora anche questo è un po' il contesto su cui un'azienda come JustKnock lavora, e il modo in cui lo fa secondo me è molto intelligente, perché ci racconta dell'approccio digitale, non soltanto nel senso di utilizzando una piattaforma, utilizzando anche una piattaforma, ha un problema specifico come le assunzioni, il recruitment. Cioè, prima di farmi vedere l'elemento, chiamiamolo statico, cioè un pezzo di carta in cui ci sono informazioni che dichiarano quello che tu dici di saper fare, che nel caso di un laureato spesso è molto poco. Sì, fallo. Cioè, fallo, cioè. E noi volevo rafforzare questa cosa portando un esempio e aggiungendo un elemento. Noi abbiamo fatto un progetto l'anno scorso con una grossa azienda nel settore manifatturiero, dove stiamo parlando quindi di produzione di oggetti fisici, non di un'azienda high tech, anche abbastanza tradizionale, e nel quale abbiamo coniugato le due dimensioni. Cioè siamo partiti con un progetto nel quale dei ragazzi sono stati selezionati da noi in maniera abbastanza light, su profili, e sono stati chiamati a fare un hackathon, che è questo nuovo format con il quale in sessioni intensive di 48 ore si cerca una soluzione ad un problema che l'azienda aveva posto. Dopodiché i ragazzi che hanno fatto le loro, si chiamano pitch, cioè le loro presentazioni ai capi dell'azienda, ma capi a livello mondiale e Europa, hanno cominciato a lavorare direttamente, a stretto contatto, con questi capi, cioè persone neolaureate insieme ai capi, e l'hanno fatto per 6 mesi. Alla fine di questo percorso, 3 di queste persone sono state assunte. Questa è un po' l'esplosione del lavoro che fa JustKnock, no? Cioè ti metto alla prova su un problema specifico, ti vedo, ti osservo nel modo in cui lo fai. Dopo non mi interesserà più se sei laureato, estremizzo per farmi capire, in ingegneria meccanica, elettronica, o se sei laureato, conta soprattutto la tua capacità di risolvere il problema. Poi evidentemente c'è un set di competenze strutturate che va mantenuto, e quindi evidentemente io non potrei mai fare l'ingegnere o il medico, sì, però chiaro. Conta questo approccio. Sì, volevo aggiungere qualcosa? Sì, no, devo dire che effettivamente poi una cosa importante da aggiungere è che le aziende individuano i migliori talenti e al contempo fanno innovazione, perché poi effettivamente giovani candidati, che spesso sono i più preparati anche da un punto di vista digitale, danno delle... Sì. Beh, sapete che di fronte a questi hackathon ci sono anche quelli che criticano, perché dicono le aziende sfruttano i giovani, li chiamano per 48 ore, gli rubano le idee e poi tanti saluti. Poi ci sono le aziende serie e le aziende che invece fanno questo proprio solo con questo scopo. Isabella, tutto quello che succede sulla vostra piattaforma viene valutato da umani o da macchine? Perché immagino che questa sia anche una nuova frontiera. Certo, diciamo che abbiamo costruito la nostra piattaforma in un modo tale per cui i candidati siano supportati e guidati nel processo di caricamento delle loro idee, e se non vengono completati tutti i campi al 100% il candidato non può proseguire, per cui in qualche modo c'è uno sbarramento naturale di completezza. Poi il progetto arriva all'azienda ed è l'azienda a valutare, per cui in questo momento diciamo c'è anche ovviamente una valutazione umana del progetto. Comunque, anche perché poi sono i contenuti che hanno un valore, per cui non ci sono sistemi di intelligenza artificiale che riescono a valutare queste cose. No, stiamo sicuramente facendo dei ragionamenti e valutando dei sistemi, dei software di valutazione semantica per darci un supporto per alleggerire poi il lavoro di valutazione da parte delle aziende, però sicuramente un occhio umano ci deve essere. Pepe? Beh, se Isabella prima ci ha citato dei numeri molto contenuti nel caso della catena di vendita al dettaglio in ambito sportivo, 20 curricula o 20, non 20 curricula, 20 progetti, più di una volta invece abbiamo letto che per una posizione arrivano migliaia di curricula. È impensabile per un'organizzazione avere una struttura che passi il tempo solo a leggere curricula, anche perché poi incominci a, come dire, a mixare, a mettere insieme i pezzi di un curriculum o di un altro e fai veramente fatica. Ecco perché le intelligenze artificiali si sono sviluppate proprio per controllare, per leggere i curricula dei candidati, paragonarli a quelli che sono le descrizioni del profilo della persona, del candidato che l'azienda sta cercando, e creare una classifica dal più adatto, da quello che la macchina, l'intelligenza artificiale definisce come più adatto, a quello che è considerato meno adatto. Quindi questo permette di scremare tanto, di pulire quello che viene definito, quella che è la comparazione, viene fatta anche su elementi social, quindi sui profili social dei candidati, e le stesse intelligenze artificiali vengono anche utilizzate per poter cercare professionisti a contratto, per esempio, per andare a completare dei progetti. Quindi non solo una selezione dei curricula, ma anche una ricerca proattiva di profili per completare un progetto, perché ho bisogno di uno sviluppatore software. Sì, sì. Hai citato cose che succedono già, quindi? Sì, una è mia, è una piattaforma di First Job, che ha preso, $3 milioni solamente per questa piattaforma, per lo sviluppo, ed è già in essere. E l'altra invece è Tara, che è appunto questo chatbot, questa intelligenza artificiale che interagisce, che fa scouting e interagisce con i profili di professionisti, di sviluppatori software. Bene, prima di concludere volevo fare una considerazione con Marco a proposito di, pure se anche Isabella vuole intervenire, sulla necessità che il cambiamento sia anche delle piccole aziende. Perché prima abbiamo parlato di grandi aziende, capisco che il vostro modello di business sia vado dalle poche aziende che magari hanno anche un budget interessante per fare il famoso change management, che tra l'altro non riguarda solo i manager e le persone che stanno alla scrivania. Assolutamente no, ripeto, nel caso che facevo prima di azienda manifatturiera, il cambiamento investirà soprattutto gli operatori sulla linea, quindi sì, sì, fabbrica, gli operai, col termine. Però come dire, abbiamo questo grosso problema. Adesso c'è anche un dibattito nazionale collegato a Industria 4.0 e alle competenze che devono essere attivate per affrontare i cambiamenti di Industria 4.0. Abbiamo questo problema, rimane grande. Enrico lo chiamerei un'emergenza nazionale, perché ormai il mondo va a una velocità e il livello della competizione sta accelerando in una maniera tale per cui mi viene da dire soprattutto le piccole e medie imprese, come su tante altre cose, dovrebbero attivarsi, anche perché diversamente dalle grandi aziende le piccole e medie imprese sono più agili naturalmente e quindi potrebbero cambiare più velocemente delle grandi aziende. C'è un rapporto lineare tra dimensione dell'azienda e velocità del cambiamento, per cui quello che posso dire è che il fenomeno è generalizzato e il cambiamento è epocale, e culturale, cioè mai come comunque in maniera così estesa si era esteso a, si era assistito a una tale pervasività del fenomeno su tutte le generazioni delle aziende, su tutti i settori. Noi per esempio non abbiamo ancora attivato alcun progetto con la pubblica amministrazione che sarebbe in cima alla lista, no? Quindi tu citi le piccole e medie imprese, io cito la pubblica amministrazione che producendo servizi è quella, non dico al centro, ma molto vicina al vortice. E quindi tutti siamo chiamati anche a gestire un fenomeno di intergenerazionalità in cui spesso quelli più vecchi devono imparare a abilitare i più giovani che parlano una lingua completamente diversa. È come se all'improvviso ci fossimo svegliati tutti quanti e si cominciasse a parlare il cinese, tanto per fare un esempio, e nessuno lo sa, soltanto quelli che sono nati in Cina o che per fortuna hanno un genitore cinese sanno parlare quella lingua. Ecco, è quello che sta succedendo oggi con il digitale. Pepe? È incredibile come il mondo venga cambiato dalle startup che sono piccole imprese e come le piccole imprese tradizionali non capiscano che possono cogliere questa opportunità per diventare loro le startup del cambiamento. Esatto. Bene, io vi ringrazio. Isabella, volevi fare No, volevo dire che noi come Just Knock siamo partiti per esempio con, ovviamente coinvolgendo le grandi aziende, però notiamo che ci sono, il mondo delle startup è molto attivo, noi abbiamo seguito più ricerche per delle startup che sono le prime ad avere esigenza di reclutare persone che siano motivate, che abbiano voglia di fare, che siano dei risolutori di problemi, per cui è un mercato che effettivamente con noi sta funzionando molto bene e anche qualche piccola media impresa si sta avvicinando a noi, per cui l'importante è incontrare persone che capiscano e percepiscono il valore di quello che sta accadendo e del cambiamento. Grazie a tutti, a presto. Grazie. Grazie. Grazie. Prima di chiudere questa puntata, quest'ultima puntata della stagione, poi riprenderemo a settembre, quindi massima tranquillità, lo dico perché ci sono alcuni ascoltatori che mi hanno scritto o hanno scritto sui social network ponendosi la domanda: ma come, non ci sarà più 2024 a partire dal prossimo palinsesto? No, quello che avete letto sul sito internet di Radio 24 è una serie di indicazioni sulle novità del palinsesto di Radio 24. Visto che 2024 non è una novità, ma è una continuità, perché è una conferma di un programma che tra l'altro è in onda dal 1999, direi che sono due i programmi in onda dal 1999 ad oggi, da quando è nata Radio 24. 2024 è Focus Economia. Qua bisogna porsi il problema, Focus Economia non ha problemi di titolo, mentre 2024, nell'avvicinarsi dell'anno 2024, bisogna porsi il problema. Se avete delle soluzioni, dei consigli da darmi, ben vengano. Alcuni dicono mantieni quel titolo, punto e basta, oppure c'è chi dice metti 3024 così sei a posto, direi per tutta la vita, oppure cambia radicalmente, cambia proprio titolo. Comunque abbiamo ancora un po' di tempo prima di prendere questa decisione. Tra l'altro dico proprio a commento della storia, visto che siamo nell'ultima puntata, ci sbizzarriamo, poi vi voglio far sentire un ultimo contributo per chiudere la storia di 2024. A proposito del fatto che siamo in onda dal 1999, nei primi 5 anni di Radio 24 questo programma era un programma quotidiano, dal lunedì al venerdì tra le 21 e le 22 in una prima fase, poi dopo l'11 settembre abbiamo rivoluzionato il palinsesto serale e quindi 2024 andava in onda tra le 22.30 e le 23.30 e per molti anni anche con gli ascoltatori in diretta. Poi sono state fatte altre scelte e adesso appunto abbiamo questa ora settimanale dedicata alla tecnologia. Dunque, a proposito dell'ultima cosa che volevo farvi, quindi torniamo a settembre, punto e basta. L'ultima cosa che volevo farvi ascoltare è una serie di raccomandazioni che Matteo Flora, che è un esperto di sicurezza che noi chiamiamo spesso 2024, che ha messo in un video. Matteo Flora produce tantissimi video, direi uno al giorno. Questo mi ha colpito particolarmente, non è un caso che abbia fatto 500-600 mila visualizzazioni tra Facebook e YouTube, quindi insomma è stato un successo questa settimana. Sentiamo che cosa ci racconta Matteo Flora e quali sono i suoi consigli. Poi se volete rivederlo, già ascoltandolo si capisce tutto, però se volete vedere la sua facciona e i suoi occhiali, potete andare appunto su YouTube oppure sul blog di Matteo Flora o anche su Facebook, molto semplice, cercando Matteo Flora si raggiunge molto facilmente. Martina è una ragazzina svegliissima, ha 5 anni e bionda come il sole. Ed è tanto, tanto intelligente. Come lo so? Lo so perché il papà è un mio amico su Facebook e il papà racconta su Facebook tutto quello che Martina dice, o meglio, una selezione di quello che Martina racconta. In genere non ci ho fatto un granché caso, fino a che un giorno mi sono accorto che Martina era taggata all'interno delle citazioni. Era taggata perché Martina ha un profilo Facebook. Il papà l'ha fatto tanti tempo fa, quando Martina era più o meno nata, per una cosa simpatica, per poterla taggare, per avere la sua parte, per fare in modo che mamma e papà, che vivono separati, possano taggare la bambina e avere un qualcosa per, non lo so, mantenere una sorta di coesione familiare. Ma, c'è un ma all'interno di quel profilo trovo tante cose. Ho fatto presente al papà che forse non era l'ideale avere una bambina così piccola con un profilo Facebook, e mi ha detto che vabbè, ma dai, sono sempre il solito paranoico, cosa vuoi che succeda, tanto comunque la foto di profilo era di spalle, nessuno avrebbe potuto riconoscerla. L'ho presa come una sfida e non è quasi mai una cosa bella. Non è una cosa bella perché poi mi appassiono alle cose, e allora ho spiegato al papà come avrei rapito Martina. Partiamo dall'inizio. La foto di Martina, è vero, non c'è nella foto profilo, ma è taggata all'interno dei post. Quindi andando a vedere il suo profilo, io la foto di Martina l'ho ben chiara, tant'è che sapevo perfettamente che faccia avesse. So anche a quali giardinetti va, perché sia mamma che papà, quando la portano, fanno le fotografie geolocalizzate, e quindi ho tutto il percorso, non solo. Ho anche i giorni della settimana in cui Martina va ai giardinetti. Perché? Perché basta prendere la serie numerica per accorgersi qual è la periodicità. So che ci va il lunedì e il mercoledì. Il lunedì con i nonni, che non conosco, ma il mercoledì ci va con la mamma. La mamma, peraltro, è sempre seduta là, qui dietro. Mamma è sempre seduta là in fondo, c'è una panchina. Come lo so? Perché ci sono due o tre fotografie della mamma e la mamma legge, quindi ho un attimo di tempo per poter adescare Martina. Come lo faccio? Beh, Martina nella biografia ha il fatto che gli piace un sacco Cars. Non solo, le piacciono i treni, le piacciono una serie di personaggi della Disney, molto precisi. I personaggi che adora Martina li so tutti, perché sul suo profilo papà, come se l'avesse usato lei, ha fatto tag a una serie di pagine. Non solo, lo zio le ha regalato una macchinina particolare di un personaggio di alcuni cartoni animati, e quindi mi presenterò con quella macchinina dicendo che l'ha lasciata a casa dello zio. Non solo, c'è una bella fotografia di lei che guarda gli aerei che decollano, con il papà che scrive che quando guarda gli aerei perde totalmente la testa, e quindi dirò a Martina che sono un amico dello zio, e per confermarglielo le darò il gioco che gli ha regalato lo zio dicendo: guarda, l'hai lasciato qua, mi ha detto zio di dartelo. E poi le dirò: vieni con me che ti porto a vedere gli aerei che decollano, e Martina mi seguirà. E non solo Martina mi seguirà, ma siccome so anche tutte le località di villeggiatura e so dove vanno in vacanza perché ci sono i tag, saprò anche quali luoghi evitare di frequentare con Martina. Cosa è successo dopo? Beh, l'ho raccontata questa cosa al papà di Martina, e Martina non ha più un account, come è giusto che sia. Ma ancora di più, ho spiegato al papà che ampliare la superficie di attacco come si chiama tecnicamente questa cosa, non è una buona idea. E si chiama superficie d'attacco perché sono le informazioni che io posso avere per attaccare un soggetto, in questo caso un soggetto che non sa e non può ancora difendersi, un bambino. Lo possiamo fare con gli adulti che magari possono anche pensare di essere in qualche modo, non so, presi in giro, adescati. Non lo può fare una bambina di 5 anni. Il mondo è pieno di gente cattiva, il mondo è pieno di gente malvagia. Lo so, li conosco, li ho incontrati. Forse, come mi diceva un amico un po' di tempo fa, bisogna stare attenti guardando nell'abisso a non diventare abisso noi stessi. Ma questa volta te l'ho detto con le buone, fai in modo che non ci sia qualcun altro che queste cose invece le fa con le cattive. Che ne dici? Questo è 2024, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana. Dalla prossima settimana abbiamo un orario da agosto, sabato 12.30, domenica 13.30. Vi annuncio anche che io e Simone Spezia vi proporremo una serie di puntate, 5 puntate per il mese di agosto e l'inizio di settembre, su vari temi che in qualche modo hanno a che fare con i dati che generiamo, che raccogliamo. Il programma si intitola Codice Sorgente, andrà in onda a partire dal 4 di agosto, sabato 4 di agosto, ammesso che abbia preso la data giusta, adesso la controlliamo subito, a partire dalle 16 e in replica la domenica dalle 10. Sabato 5 agosto, domenica 6 agosto, quello è il weekend in cui inizieremo questa serie di 5 puntate. Noi ci risentiamo sabato prossimo oppure su internet, via Twitter o via Facebook, quando volete.